Effetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Incendio in una casa a Como, morte tre bambine, le fiamme appiccate dal padre, è rimasto senza lavoro e con la moglie in ospedale. Banca d'Italia, emergono dettagli sullo scontro nel PD tra Gentiloni e Renzi. Appello degli economisti dal Sole 24 Ore, la politica ne stia fuori. Referendum per l'autonomia, domenica si vota in Veneto e Lombardia, la vera incognita è l'affluenza. Chiamparino attacca la giunta torinese sullo smog, allarme eccessivo per domenica, attese le piogge che forse però non basteranno. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 è il numero come sempre per gli sms e per i messaggi su WhatsApp. Siamo anche in diretta video sulla nostra pagina Facebook e sulla pagina Facebook di Radio 24, se volete potete commentare anche là. Oggi dall'altra parte del vetro sempre Laura Faggini in assistenza in redazione e Paolo Corleoni in regia. Iniziamo dunque questa trasmissione parlando di e parlando di quello che è successo a Como, dove sono morte tre bambine in un incendio. Abbiamo in studio con noi Maria Piera Ceci. Buongiorno Piera. Buongiorno Simone. Sì, partiamo proprio dal bilancio che purtroppo nel corso della mattinata si è andato aggiornando. Prima si era parlato della morte di un uomo, poi di tre dei suoi quattro figli. Si tratta di due bambine e un bambino, sono fra i 3 e gli 11 anni. La morte è stata causata dal fiume. Ricoverata invece in condizioni gravissime la quarta figlia, una bambina di 5 anni. Cos'è successo? Siamo a Como, stamattina i vicini di casa hanno chiamato i soccorsi vedendo le fiamme uscire da una casa. Si tratta di una casa di un ente benefico che viene messa a disposizione di famiglie in difficoltà. I soccorsi sono arrivati davvero velocissimi, raccontano, e in pochi minuti hanno spento le fiamme. In casa è stato trovato l'uomo morto, si tratta di un uomo di 49 anni di origini marocchine, e poi c'è stato il tentativo disperato di salvare i bambini, ma purtroppo invano, come dicevamo, per 3 di loro non c'è stato nulla da fare. L'ipotesi, la prima ipotesi, è che l'uomo con regolare permesso di soggiorno abbia appiccato le fiamme prima di togliersi la vita. Non aveva un lavoro stabile, la moglie è ricoverata da qualche mese per disturbi psicologici, quindi insomma una famiglia con grandi difficoltà, famiglia seguita dai servizi sociali di Como, e secondo i vicini potrebbe essere stato proprio l'intervento dei servizi sociali a scatenare il gesto dell'uomo. Sentiamo una testimonianza raccolta sul posto, poi a te Simone. Lui diceva che il sistema sociale non voleva aiutarli perché loro volevano portare via i bambini. Quindi lui non voleva, quindi ha dovuto rimanere a casa. Non ho capito se ha perso il lavoro o era disperato. Ha deciso di rimanere a casa con i bambini, però la situazione è quella che comunque non aveva nessuno con cui lasciare i bambini. E questo è il racconto dunque da Como. Veniamo alle vicende che hanno a che fare con la Banca d'Italia. Dopo la mozione del Partito Democratico, un tema che continua a rimanere in primo piano, ci colleghiamo con Elisabetta Fiorito. Buongiorno Elisabetta. Sì, buongiorno Simone, resta alta la tensione su Banca Italia e continuano i veleni all'interno del PD. Spunta una chat in cui il PD sfidava il governo con il ministro Anna Finocchiaro, che affermava erano pronti a sconfiggere il premier. Intanto Paolo Gentiloni va avanti e ribadisce la sua posizione: l'unico criterio che seguirà nell'indicare il nome del nuovo governatore sarà la salvaguardia dell'autonomia della Banca d'Italia. Malgrado gli scherzi, conferma la fiducia alla sottosegretaria Boschi, accusata poi di essere stata al centro delle manovre sulla mozione antivisco. Dal canto suo Matteo Renzi garantisce appoggio totale alla scelta del premier, ma continua ad attaccare: sto dalla parte dei risparmiatori e dei loro diritti, non del galateo istituzionale. Ad intervenire anche il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda: prima rientra questo incidente meglio è, se ci fosse una strategia di Renzi per incorrere 5 Stelle sarebbe gravissimo. Sinistra Italiana chiede poi alla presidente della Camera Laura Boldrini che il governo venga a riferire in aula. Silvio Berlusconi si smarca dal segretario PD: ho denunciato l'antico vizio della sinistra per l'occupazione di posti, dice, nessun asse con Renzi. A te Simone. Grazie dunque ad Elisabetta Fiorito anche per questo aggiornamento. Domani 2 referendum per l'autonomia in Lombardia e Veneto. Sentiamo. Urne pronte in Lombardia per il referendum sull'autonomia che per la prima volta in Italia sarà totalmente elettronico. Tablet, chiavette e software dunque al posto di carte e matite per 7.700.000 lombardi che avranno a disposizione 24.400 schermi per una spesa stimata attorno ai 50 milioni di euro. Il referendum è consultivo e avrà solamente un valore politico, servirà cioè al governatore della Lombardia Maroni per avere più peso nella trattativa con il governo. Il significato del referendum è questo. In 16 anni nessuna regione è mai riuscita ad ottenere più autonomia in attuazione della riforma del titolo V avvenuta nel 2001. Molte regioni ci hanno provato, ma Roma ha sempre detto di no. È per questo che serve il referendum, perché se io vado a Roma, io e Zai andiamo a Roma con qualche milione di lombardi e di veneti che hanno detto di sì, il nostro peso aumenta e le cose possono cambiare. I due referendum chiedono la concessione di una maggiore autonomia dallo Stato, guardando al modello delle 5 regioni a statuto speciale. Si vota in Lombardia dalle 7 alle 23 di domenica 22 ottobre. Si vota presentandosi al proprio seggio elettorale con un documento d'identità valido. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia? È questo il quesito davanti al quale si troveranno domenica 22 ottobre i Veneti. Si vota dalle 7 alle 23. A differenza della Lombardia, non ci sarà il voto elettronico, ci sarà invece il quorum. La proposta è approvata se partecipa alla votazione la maggioranza, il 50% più uno, degli aventi diritto e se il sì ha la maggioranza dei voti espressi. Il referendum però è solo consultivo e avrà un valore politico come arma di pressione sul tavolo delle trattative con il governo per chiedere maggiore autonomia, in particolar modo fiscale. Secondo la CGA di Mestre, la regione ha un saldo positivo, cioè versa più di quanto riceve, nel 2015 quantificato in 18,2 miliardi di euro. Anche se a spingere per la consultazione è stato soprattutto il Carroccio, in Veneto tutte le forze politiche presenti nel Consiglio regionale sono per il sì. Anche molti sindaci del PD, come il sindaco di Treviso Manildo. A sinistra, contrario, l'ex sindaco ed esponente storico del centro-sinistra Massimo Cacciari, per cui il referendum è inutile. Si potevano, dice, portare avanti trattative per l'autonomia fiscale senza passare dal voto. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Gli aggiornamenti invece sull'inquinamento. Si apre anche uno scontro tra la Regione e la Giunta di Torino. Un allarme eccessivo, così il presidente della Regione Piemonte, Chiamparino, commenta l'invito del Comune di Torino a tenere chiuse porte e finestre per lo smog. Nel capoluogo torinese la concentrazione di polveri sottili è a 114 microgrammi al metro cubo, oltre il doppio della soglia massima consentita. Stessa situazione a Milano, dove le centraline dell'ARPA hanno registrato il superamento di quota 100, mentre nelle province il nono giorno sopra il limite dei 50. Scattano quindi i limiti alla circolazione non solo in Piemonte e Lombardia. Da oggi a lunedì blocco per gli Euro 4 e abbassamento del riscaldamento in tutte le province emiliane, tranne Ravenna. Divieti anche al sud. A Napoli stop alle auto fino alle 19.30 di oggi, mentre Avellino si prepara a 3 domeniche in bici e a piedi. A preoccupare sono le ripercussioni sulla salute. A Roma uno studio di Greenpeace ha rilevato che la mattina, davanti a 10 scuole, i valori di biossido di azoto superano sempre la soglia consentita. Solo l'arrivo della pioggia, attesa domenica al nord, e un rinforzo dei venti porterà a una diminuzione significativa dei livelli di polveri sottili. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il tema dell'inquinamento e della poca acqua, ci torneremo dopo, più avanti nel nostro giro per l'Italia. Andremo tanto in Lombardia quanto in Piemonte. In Piemonte, nella fattispecie, visto che di inquinamento abbiamo parlato parecchio, per parlare proprio della siccità, perché come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, ci sono una cinquantina di comuni che vengono riforniti con le autobotti e non si esclude che questo numero possa aumentare nelle prossime ore. Veniamo al G7 di Ischia. Una firma non scontata, quella alla quale soprattutto l'Italia lavorava da mesi, ovvero l'intesa tra i ministri dell'interno del G7 e i big della rete, da Microsoft a Google, da Twitter a Facebook. Una collaborazione questa che punta a bloccare i processi di radicalizzazione via web, impedire che i sermoni inneggianti alla violenza, inviti al jihad, istruzioni per compiere attentati e realizzare ordigni rudimentali possano circolare liberamente sul web e arrivare a destinazione. Perché, come ha ricordato più volte il ministro dell'interno Minniti, quasi casi l'80% delle radicalizzazioni avviene tramite la rete e dunque è lì e non solo nel deserto di Siria ed Iraq che bisogna intervenire. Centrale nei lavori a rischio anche il tema dell'immigrazione, come conciliare l'accoglienza e l'esigenza di sicurezza dei paesi coinvolti, come evitare che i trafficanti di esseri umani continuino a sfruttare le rotte della speranza, firma tal fine tra il ministro dell'interno Minniti e il segretario del Dipartimento della Sicurezza Interna degli Stati Uniti, Duke, per una maggiore integrazione delle reciproche banche dati. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Ischia. Poco distante, in un altro posto altrettanto bello, a Capri si apre il convegno dei giovani imprenditori di Confindustria. Oltre l'Italia nel mondo, il mondo in Italia, il tema del convegno dei giovani imprenditori di Confindustria, riuniti da oggi a Capri per una 2 giorni in cui si discuterà di Made in Italy e internazionalizzazione delle imprese. Il presidente dei giovani imprenditori, Alessio Rossi, toccherà tutti i temi del momento, dalla Golden Power e il ruolo dello Stato come investitore strategico, agli investimenti esteri in Italia e alle norme antiscorrerie del decreto fiscale. La 2 giorni di Capri vede il ritorno di Silvio Berlusconi. Il cavaliere arriverà infatti nel primo pomeriggio dopo 9 anni di assenza, quando partecipò al convegno dei giovani imprenditori a Santa Margherita. Vivere ai tempi dell'economia mondiale, cambio d'epoca, esportare la bellezza, direzione, crescita, sono i vari temi di approfondimento oggi in agenda. Previsti gli interventi di Ennio Doris, presidente di Mediolanum, Luca Lotti, ministro dello sport, Dario Nardella, sindaco di Firenze, Ivan Scalfarotto, sottosegretario del Ministero dello Sviluppo Economico. Teresa Trillò, Radio 24, Sulle 24 ore Capri. All'indomani della morte di un turista spagnolo a Firenze si aprono le indagini. Per tutta la giornata la Basilica e il complesso monumentale di Santa Croce a Firenze resteranno chiusi dopo l'incidente mortale di ieri in cui ha perso la vita un turista spagnolo colpito da un grosso pezzo di capitello staccatosi da 30 metri. L'area dell'incidente è ancora sotto sequestro mentre proseguono le indagini con la procura che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento senza indagati. Il ruolo di curatela del complesso architettonico e artistico di Santa Croce è affidato all'Opera di Santa Croce. Il segretario generale Giuseppe De Micheli insiste: abbiamo fatto controlli la settimana scorsa, era tutto a posto. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. C'è ancora un certo grado di incertezza, non si sa se si svolgerà la manifestazione di Forza Nuova nel giorno dell'anniversario della marcia fascista su Roma. Sentiamo. Non ci sarà la marcia su Roma proclamata da Forza Nuova, non il 28 ottobre, parola della Questura di Roma, che in una nota scrive: il gruppo di estrema destra si è presentato comunicando nuove modalità di svolgimento dell'iniziativa, quella contro l'invasione dei migranti e lo Ius Soli annunciata alcune settimane fa, modalità che sono oggetto di adeguate valutazioni. Il 28 ottobre, quindi, scrive ancora la Questura, non si terrà nessun evento, possibile un'altra data, ipotesi 4 novembre, giornata dell'Unità Nazionale delle Forze Armate, ma la questione non è così chiara perché poco dopo in un post su Facebook il leader di Forza Nuova Roberto Fiore afferma che le cose non stanno esattamente in questi termini. Non è stata ancora sciolta la riserva e la manifestazione del 28 non è stata annullata. Stiamo cercando di arrivare ad una soluzione che non porti a violenze ingiustificate o a disordini, aggiunge Fiore, che poche ore prima aveva lanciato un appello a Minniti affinché revocasse il divieto per il 28, appello firmato anche da politici come Ignazio La Russa, parlamentare di Fratelli d'Italia ed ex ministro della difesa. Insomma, per Forza Nuova nessuna marcia indietro. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E invece parecchie marce indietro e marce avanti abbiamo visto in questi giorni in Catalogna, o meglio tra la Catalogna e Madrid. È una giornata di vigilia quella di oggi, perché domani c'è la scadenza che a questo punto crediamo, speriamo che sia l'ultima. Luca Veronese del Sole 24 Ore, ciao Luca. Ciao, ciao a tutti. Sì, domani sabato si riunisce il governo e dovrebbe finalmente dico perché lo hanno minacciato, annunciato tante volte, e dovrebbe varare l'applicazione dell'articolo 155, quindi il commissariamento della regione catalana, della Generalità, l'annullamento dell'autonomia regionale. Poi si andrà al Senato, quindi ci saranno ancora giorni di attesa. Di sicuro la novità è che a Madrid i socialisti, che sostengono il governo in minoranza di Rajoy, hanno trovato un accordo con lo stesso Rajoy per arrivare alle elezioni in Catalogna, si dice entro gennaio. Questo potrebbe essere una svolta, quantomeno rinnoverà il Parlamento catalano Certo, il problema, la questione catalana sull'autonomia e l'indipendenza non verrà risolta in questo modo. Io ti ringrazio Luca Veronese, vedremo che cosa avverrà dunque nelle prossime ore. Visto che siamo sulla Catalogna e parliamo di autonomia, prima di chiudere andare a sentire cosa succede sulle strade, e fatemi rispondere ad un ascoltatore che evidentemente, o un'ascoltatrice, non lo so perché non si è firmato, è Paola che è un'ascoltatrice, che forse è un po' poco attenta, ci dice ma perché non parlate di quello che ha fatto in questi giorni l'Emilia Romagna con il governo sull'autonomia? Ma come, Paola, ci deve ascoltare. Abbiamo avuto ospite Stefano Bonaccini, il presidente della regione, esattamente 2 giorni fa, che ci ha detto: un'ora fa ho firmato l'accordo con Gentiloni, praticamente l'abbiamo data in anteprima noi, prima che facesse la conferenza stampa. Ce ne siamo occupati, non si preoccupi. Traffico, ci risentiamo tra un attimo, iniziamo il nostro giro per l'Italia, parleremo molto di smog e siccità, però c'è anche una cosa che mi preme raccontarvi, è una vicenda che ha a che fare con tutto quello che vi abbiamo raccontato in merito al sindaco di Seregno arrestato, all'imprenditore accusato di collusione con l'Ndrangheta. Perché? Perché è successo che ieri il Tribunale per le Libertà ha rimesso in libertà questo imprenditore, e le cose, a quanto sembra, non erano proprio o non sembrano essere proprio come credevano che fossero i PM, i pubblici ministeri, ossia l'accusa. E visto che ne abbiamo parlato così diffusamente e i giornali che in quei giorni ci aprivano li mettevano in prima pagina e adesso gli dedicano un trafiletto a pagina 16, beh, ci sembra giusto fare una sottolineatura su questo. A tra un attimo. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, sempre 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp e la nostra pagina Facebook, la pagina Facebook di Radio 24, dalle quali andiamo anche in diretta video. Ve lo ricordo, come tutti i giorni potete scegliere di farvi notificare il momento nel quale Radio 24 è in diretta, per insomma aver disponibile la cosa. Non disturba molto, vi segnala solamente: guarda, in questo momento Radio 24 è in diretta. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato di Banca d'Italia, dell'incendio in una casa di Como con il quale sono morte 3 bambine, del referendum per l'autonomia, di smog, sul quale torneremo tra un attimo. Ma come vi dicevo prima del traffico, fatemi fare un inciso. Abbiamo cercato gli avvocati oggi di Antonino Lugarà, non siamo riusciti a parlare con loro. Antonino Lugarà chi è? È l'imprenditore edile calabrese che era stato arrestato nell'ambito dell'inchiesta che ricorderete, perché lungamente ne abbiamo parlato, del 26 settembre, che portò appunto anche in carcere il sindaco di Seregno, Edoardo Mazza. Le accuse quali sono? Le accuse sono di corruzione e di collusione con la criminalità organizzata. Allora qua conviene mettere in evidenza una cosa, sottolineare quanto spesso anche noi giornalisti tendiamo a rendere degli indagati dei condannati, a trasformare gli indagati in condannati, perché mettiamo in prima pagina quando vengono indagati e poi mettiamo nelle ultime pagine in piccoli trafiletti quando invece le cose sembrano raccontare qualcos'altro. Nella fattispecie non lo sappiamo ancora, perché forse ci sarà un processo o forse no, lo vedremo se ci sarà il rinvio a giudizio. Nella fattispecie Antonino Lugarà è stato liberato dal carcere, l'imprenditore edile. È stato liberato dal carcere, lo racconta bene Luigi Ferrarella sul Corriere della Sera oggi. Non c'è ancora il dispositivo per il quale il Tribunale della Libertà ha deciso di liberarlo, e però le motivazioni degli avvocati sono piuttosto forti. Innanzitutto, voi ricorderete quell'intercettazione nella quale Lugarà parlava col sindaco e gli diceva di accelerare una certa pratica. Il sindaco gli diceva: ogni promessa è debito. Si scopre in realtà che ce ne sono altre di intercettazioni che forse non sono state prese in dovuta considerazione, nelle quali l'imprenditore si lamenta che alcune pratiche sono molto lente, come fanno tutti gli imprenditori d'Italia. E dall'altra parte si scopre che questa incredibile raccolta voti che avrebbe messo in atto questo imprenditore Lugarà, ebbene, ha portato ai candidati da lui sostenuti di Forza Italia 72 e 30 voti. pensate se questa è una raccolta voti così possente. Vedremo che cosa succederà. Probabilmente i magistrati inquirenti hanno in mano qualcos'altro di più sostanzioso. Questo non lo sappiamo e non lo possiamo dire. Quello che possiamo dire è che, visto quanto abbiamo trattato il tema di Seregno, questi arresti e questa inchiesta sull''ndrangheta, valeva la pena assegnare altrettanto spazio alle ragioni della difesa e alla decisione del Tribunale della Libertà. Dunque, iniziamo parlando di smog e della situazione che c'è sulle regioni, soprattutto della pianura padana. Abbiamo in linea Claudia Maria Terzi, assessore all'ambiente, energia e sviluppo sostenibile della Regione Lombardia. Buongiorno, buongiorno. Benvenuta. Buongiorno, grazie. Allora, per farci dare da lei un quadro della situazione, abbiamo affrontato parecchio il Piemonte. Sul Piemonte torneremo tra poco, però per parlare in realtà non dello smog ma di siccità, abbiamo visto che anche le province lombarde sono messe discretamente male, perché sono 9 giorni di sforamento. A Milano oggi sono superati, no, i 100 milligrammi per quanto riguarda i PM10. Sono 98 la media dei microgrammi per metro cubo, sì, siamo vicini. È comunque decisamente al di sopra del limite che ormai abbiamo imparato tutti a conoscere, 50. Non è solo Milano, purtroppo. C'è Brescia, c'è Bergamo, c'è Monza, c'è Mantova. Siamo a 6 giorni a Pavia e 10 a Lodi e Cremona, per avere un'informazione trasparente e corretta. Tutti i dati che tra l'altro sono disponibili, ricordo, sia sul sito di Regione Lombardia, nel dettaglio delle singole centraline, che su quello di ARPA, appunto, Lombardia. È una situazione complicata, eccezionale se considerate che non piove dal 19 di settembre, quindi esattamente un mese, e che la media delle piogge nel mese di ottobre è di 42 mm, noi ad oggi siamo a zero. Quindi, zero. Capirete bene qual è la difficoltà. Certo, ormai domenica dovrebbe piovere, ma da quel che ho capito sabato non è una grande. Dicono. Speriamo. Speriamo. Dicono, da domani. No, non è una grande perturbazione. Al momento però vige lo stop nell'arco della giornata per le auto fino all'Euro 4, per i diesel fino all'Euro 4. C'è una possibilità, un'ipotesi di estensione in base, lo ricordiamo, in realtà dei meccanismi che sono ormai praticamente automatici, perché sono dei meccanismi che avete stabilito insieme alle altre regioni del bacino nel mese di giugno. Ci sono delle ipotesi che si estenda questo blocco magari anche agli Euro 5 nei prossimi giorni? Gli Euro 5 assolutamente no. Io ricordo che dal 1 di ottobre al 31 marzo in automatico in Regione Lombardia si applicano quei divieti che ormai tutti abbiamo imparato a conoscere, cioè il divieto di circolazione benzina fino a Euro 0 e diesel fino a Euro 2 in 570 comuni. Nei periodi di eccezionale criticità come quelli che appunto stiamo attraversando si aggiungono ulteriori misure, cioè ampliamo la gamma dei divieti sostanzialmente, quindi arriviamo, come diceva correttamente lei, a vietare fino agli Euro 4 in determinate fasce orarie. Nel momento in cui drammatico dovessero il periodo di criticità dovesse ulteriormente protrarsi, allora si ampliano anche quelle fasce di divieto. Quindi sostanzialmente ad oggi, perché stiamo applicando il cosiddetto protocollo per le situazioni eccezionali, non viaggiano gli Euro 4 nei comuni sopra i 30.000 abitanti dalle 8:30 alle 18:30. E per quanto riguarda ovviamente i veicoli privati, sì. I veicoli commerciali invece si fermano fino agli Euro 3 dalle 8:30 alle 12:30, sì. Questo più tutti gli altri divieti, le ripeto, sì, ormai nel caso ha imparato a conoscere. Sì. Sì, nel caso gli sforamenti continuassero, quando scatteranno le nuove misure? Lo dico perché questa è anche un'informazione di servizio utile per gli ascoltatori che ci ascoltano non solo dalla Lombardia, ma perché in realtà queste regole valgono tendenzialmente per tutte le regioni dell'area, compresa l'Emilia Romagna, dalla quale iniziano oggi per tutte le province tranne quella di Ravenna, lo ricordiamo. Allora, queste misure valgono Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, ovviamente sono verificate su base provinciale, le verifiche vengono comunicate e quindi la programmazione degli interventi di emergenza, chiamiamoli così, sono il lunedì e il giovedì, quindi i nostri cittadini possono tenere come date di riferimento il lunedì e il giovedì. Il lunedì verifichiamo a che punto siamo, e cosa che faremo anche questo lunedì, e comunichiamo l'entrata in vigore eventuali ulteriori provvedimenti, oppure il fatto che sia cessata l'emergenza, ovviamente. La ringrazio, grazie a Claudia Maria Terzi, assessore all'ambiente, energia e sviluppo sostenibile della Regione Lombardia. Un piccolo chiarimento con un ascoltatore che dice, a proposito dell'inchiesta e del fatto che è stato rimesso in libertà questo imprenditore, ne abbiamo parlato poco fa, dice vai a fare un giro a Degio, Seregno, fino a Mornasco, guardi che... lo sappiamo perfettamente che ci sono fortissime infiltrazioni della criminalità organizzata nella cintura milanese e ne abbiamo parlato molto spesso. Ci stiamo riferendo al caso specifico e all'attenzione mediatica che viene data da una parte al, quando c'è un arresto e l'attenzione mediatica che è molto più bassa quando questo arresto viene revocato. Per il resto del messaggio, quando dice che sono colluso o mi sono fatto pagare dall''ndrangheta, questo è il primo avvertimento. La prossima volta scatta la querela. Ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati, ci ritroviamo subito dopo, parleremo di questo, parleremo di Torino, come ho detto, della situazione della siccità, e subito dopo torneremo da Mario Breglia, che avevamo lasciato in sospeso ieri, su un tema che ci è caro, ossia le occupazioni abusive a Roma. Tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezzi, i nostri titoli. Banca d'Italia, emergono dettagli sullo scontro nel PD tra Gentiloni e Renzi. Appello degli economisti, la politica ne stia fuori. Camparino attacca la giunta torinese sullo smog. Allarme eccessivo per domenica, attese le piogge che forse non basteranno. Incendio in una casa a Como. Sono morte tre bambine. Le fiamme appiccate dal padre rimasto senza lavoro e con la moglie in ospedale. Referendum per l'autonomia. Domenica si vota in Veneto e Lombardia. La vera incognita è l'affluenza. Infine, le dichiarazioni del Presidente del Consiglio Gentiloni appena arrivate al Consiglio europeo. Dice, credo che su alcune delle materie di maggiore interesse per il nostro Paese e per l'Europa è stato un Consiglio che ha fatto fare, e sia pur limitati, dei passi in avanti. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo, 349-238-6666 per i vostri sms e messaggi su WhatsApp. L'ascoltatore di prima è sparito nel frattempo, chissà come mai. Dunque, torniamo sul tema inquinamento, siccità, lo facciamo con Paolo Romano, che è amministratore delegato di Smat S.P.A., che rifornisce d'acqua il 50% del territorio piemontese. Buongiorno Romano, benvenuto. Buongiorno a lei. Abbiamo letto nei giorni scorsi una cinquantina di comuni in Piemonte, tra cui alcuni nel torinese, costretti a fare ricorso alle autobotti per il mancato afflusso d'acqua, perché non piove. L'abbiamo sentito prima dall'assessora Lombarda, che ci ha detto, ragazzi, qua non piove. Da troppo tempo, da mesi. La situazione com'è? Potrebbe estendersi questo raggio di comuni in difficoltà oppure no? Beh, noi siamo in una fase di preallerta, come suol dirsi, cioè ne abbiamo 13 che sono senza rifornimento naturale e sono i comuni della zona montana, perché nelle zone montane le fonti sono le più vulnerabili, nel senso che hanno poco bacino di raccolta e quando non piove si asciugano. Teniamo presente che le fonti del Po, che si trovano a 2020 metri al Pian del Re sotto il Monviso, sono secche, non esce una goccia d'acqua. Quindi il che vuol dire che effettivamente quest'estate, che si sta prolungando, questo è il guaio, ha inciso pesantemente. Se continuerà così ancora per 10-15 giorni, è logico che noi ci troveremo da questa preallerta a intervenire invece che su 13 comuni, su altri 35, quindi su un totale di 48 comuni. Sì. Come interveniamo? Prendendo l'acqua dalla pianura e riportandola in montagna. Sembra un'assurdità. È un paradosso, sì, quasi. Un paradosso, nel senso che in pianura abbiamo delle fonti di approvvigionamento da falda profonda, oltre 120, 130, 140 metri, che sono pingui e quindi ci consentono di avere l'erogazione adeguata, sì, per tutta la zona di pianura. Naturalmente la possibilità di trasportarla in montagna, a parte chiaramente un costo che fa aumentare il costo, la cosiddetta onere per quanto riguarda i costi vivi, però al di là di tutto non c'è nessun cittadino che oggi, aprendo il rubinetto, si trova senza acqua, perché la riforniamo i serbatoi con le autobotti. Quindi situazioni di maggiore difficoltà ce l'avete dove esattamente? Collocate dove, Romano? Zona, nella zona montana, che significa alcuni comuni della Valle di Susa, alcuni comuni della Valle Orco. Noi abbiamo molte zone montane che fanno da estensione della zona metropolitana, della città metropolitana. E quindi ci sono questi comuni, poi se vuole vi dico anche non andiamo nel dettaglio, non mi faccia l'elenco, Romano, per carità. Castellamonte, Chiesanuova, Corio, Giaveno, fermo. Sono sicuro che li sa, non c'è problema. La ringrazio, grazie a Paolo Romano per averci aiutato a fare questo punto, amministratore delegato di Smat SPA. Dunque, i due fronti, lo smog da una parte e la siccità dall'altra, siccità che a sua volta, dato che non piove, incrementa l'inquinamento. Avevamo lasciato in sospeso una storia ieri, una storia che ha a che fare con il rispetto della legalità, molto semplicemente. Parliamo spesso, e ne abbiamo parlato soprattutto a fine agosto, dello sgombero del palazzo di via Curtatone in piazza Indipendenza, praticamente in centro a Roma, che è solo uno dei tanti casi di palazzi occupati nella capitale. Palazzi occupati nei quali, come abbiamo detto ieri, è molto difficile ripristinare la legalità, cioè far sì che questi palazzi siano sgomberati, trovare una sistemazione per delle famiglie che evidentemente sono disagiate. E a volte ci stava raccontando, e l'avevamo lasciato in sospeso proprio su questo, Mario Breglia, che è presidente di Sidief, che è la società della Banca d'Italia che si occupa della gestione degli immobili della Banca d'Italia, che ha anche un immobile in una zona piuttosto centrale di Roma occupato da alcune famiglie, e che tra l'altro è un immobile pericolante, quindi in una situazione pericolosa tanto per le famiglie quanto per chi si trova intorno, ci raccontava giustamente Breglia. Ci diceva, insomma, Breglia, che di nuovo buongiorno e bentornato ai nostri microfoni. Buongiorno di nuovo. Come vede, promessa rispettata, e tra l'altro lo stesso orario, ci diceva Breglia che la soluzione prospettata è stata questa. Dice, finché il comune non, o chi di dovere, non trova una sistemazione alternativa per queste famiglie, se voi volete sgomberarle e quindi appunto ripristinare la legalità e riprendere possesso di un determinato palazzo, tra l'altro in quella situazione, la sistemazione gliela dovete trovare voi e pagarla voi. Ho capito bene, no? La sostanza è questa, che il Comune di Roma, come più volte ha ribadito, non vuole dare case popolari alle persone che hanno occupato le case in passato, dicendo c'è una prevalenza per i romani, e questo per chi è già in classifica per le case popolari, e questo è giusto ovviamente, però la Regione Lazio ha previsto una riserva e anche la possibilità di comprare delle case nuove da dare a persone che abbiano requisiti particolari, ovviamente non gli illegali, non persone che hanno problemi, diciamo, con la legge, in case da dare agli occupanti, che ricordiamo sono quasi 10.000 a Roma, per cui in 100 palazzi occupati, quindi diciamo in qualche modo il problema va risolto. La situazione prospettata invece non è quella di risolvere il problema, ma di dire voi, quindi non solo noi, ma diciamo, rivolto in generale a tutti i proprietari dei palazzi occupati, cercate delle soluzioni abitative alternative alle persone che stanno dentro. Il comune si riserva di far verificare i propri tecnici se queste case sono adatte, e poi a quel punto manca un pezzo, perché è la prefettura che dovrebbe occuparsi di sgomberare i palazzi e far andare le persone in queste case. Queste saranno nelle case nuove. Ovviamente non si sa chi pagherà l'affitto, immagino le attuali proprietà, e il comune eventualmente si prenderà carico di qualche situazione particolarmente disagiata, anziani, handicappati, però tutto in un modo un po' totalmente vago, che noi da un mese stiamo aspettando di avere un appuntamento con l'assessore del Comune di Roma, sì, che non si è mai fatta sentire. Complessivamente mi sembra che ci sia una gestione improntata, questo dico a prescindere dal Comune, mi scusi Breglia, in assoluto, una gestione un po' improntata alla casualità, ecco, per così dire, su questo tema delle occupazioni, perché anche là abbiamo visto lo sgombero di via Curtatone, dopodiché il nulla sostanzialmente. Beh sì, anche perché quello scontro alla fine si è rivelato un boomerang, perché dal punto di vista, diciamo, della legalità, perché circa 1000 persone che erano dentro poi sono state messe in mezzo alla strada e buonanotte. Siamo finiti sulle prime pagine dei giornali di tutto il mondo con il campeggio, chiamiamolo così, abusivo in Piazza Indipendenza, le persone in giro per Roma. Ovviamente questo non ha fatto bene né all'immagine del Ministero degli Interni né a quello del Comune di Roma, e quindi credo che nessuno voglia ripetere un'esperienza del genere. Dopo via Curtatone c'è un po' di paura, soprattutto a livello mediatico, dunque, per quello che può, sì, succedere. Poi anche a livello sostanziale, insomma, sì, 1000 persone non possono essere lasciate sulla strada, sì, bisogna impegnarsi tutte le istituzioni. Tra l'altro là, questo lo dico io, Breglia, perché insomma è chiaro che non è di sua competenza, là non si sa esattamente che fine abbiano fatto le persone che sono state sgomberate da via Curtatone, perché alcuni sono stati ricollocati, altri no, non è per nulla chiaro nemmeno quello. Insomma. Beh, sono andate in altri palazzi occupati, sì, ovviamente. Erano già disponibili. Certo, giustamente, insomma, anche con lo stesso sistema, in alcuni casi, secondo alcune inchieste, con lo stesso sistema di prenotazioni e di pagamento, secondo alcune inchieste, che ovviamente dovranno trovare una verifica giudiziaria. Io la ringrazio, grazie dunque a Mario Breglia, presidente di SIDIEF, per essere stato con noi, come già promesso agli ascoltatori. Nei prossimi giorni, nelle prossime settimane torneremo su questo tema, racconteremo altre situazioni critiche e sentiremo anche l'assessore evocato appunto da Breglia, e per capire proprio come si vuole muovere il Comune di Roma da questo punto di vista. E vi dico anche, se avete notizie di situazioni simili dalle vostre città, dalle vostre province, scriveteci effettogiorno@radio24.it. Si tratta, come si diceva, di ripristino della legalità. Traffico, Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.